La zanzara con Luca Telese. Buonasera, 18:37, 42 secondi, Luca Telese qui al microfono per tornare a ronzare sui temi della giornata, ma ormai anche sulle polemiche che hanno agitato questo paese. Sembra che non finiscano mai, sembra che la battuta di Berlusconi su Barack Obama bronzato abbia portato il modello italiano all'estero anziché il contrario. Allora parleremo di questo ovviamente e di tutte le altre cose che sono successe, ma scaldiamoci innanzitutto con i titoli del TG2. Borse in recupero sulla scia del rialzo di Wall Street. Milano ha chiuso a più 1,36%. A Bruxelles l'Europa delinea i provvedimenti anticrisi nel vertice voluto dal presidente francese Sarkozy. Su internet, messaggio di Al-Qaeda al nuovo presidente degli Stati Uniti e ai suoi alleati. Via dall'Iraq, convertitevi all'Islam. Stasera prima conferenza stampa di Barack Obama. Manifestazioni, cortei e sit-in in tutta Italia contro la riforma dell'istruzione. Tensione e scontri tra gli studenti e la polizia alla stazione Ostiense di Roma. Due contusi. Una ricerca francese non lascia dubbi. Si è più felici a 65 anni che non a 40. E questo perché con la terza età si avrebbero meno preoccupazioni e affanni. Eccoci qua. Allora avete sentito, questi sono i titoli del TG2. Sentiamo adesso Studio Aperto. Roma ha arrestato un pedofilo di 27 anni, ha convinto una 12enne a spogliarsi davanti alla webcam, poi con la minaccia di diffondere le foto ha preteso scatti sempre più spinti. Aumentano i casi di ricatto online, ad agosto una ragazza di Rovigo per la vergogna si era tolta la vita. Minigonne, top ridottissimi, movenze sensuali, la telecamera nascosta di Studio Aperto ha scovato le baby cubiste in una discoteca di Milano. Attirano i ragazzi per vendere biglietti, li seducono in pista e sentite cosa ci racconta Jasmine, ha appena 14 anni. Apprezzamento di Napolitano dopo l'approvazione delle misure urgenti per l'università. Decreto positivo, aiuta la ricerca, ma tornano le proteste negli Atenei. A Roma, scontri tra polizia e manifestanti che cercano di occupare una stazione. Feriti uno studente e diversi agenti. Vertenza all'Italia, il fronte del no decide lo sciopero bianco. Piloti e hostess applicano alla lettera normative e regolamenti di volo, inevitabili disagi e ritardi, ma allo stesso tempo i sindacati autonomi chiedono un incontro urgente al commissario Fantozzi. Prima di tutto a scuola, per i colloqui periodici con gli insegnanti delle figlie, così il neopresidente Obama ha cominciato la sua giornata, poi il briefing con la CIA e i consiglieri economici. Crisi finanziaria al centro del vertice UE a Bruxelles per definire una strategia comune. Il premier Berlusconi liquida le polemiche sulla bronzatura. L'opposizione non ha niente da fare. Milano, nuova udienza per Fabrizio Corona in tribunale. Ed eccoci qua, ci fermiamo con Corona, che ci sembra che sia il limite del sommario di questo TG, e ritorniamo allora a parlare di quello che è accaduto ieri. Tutte le vostre telefonate paradossalmente vertevano su questa battuta, evidentemente avevate ragione voi, non noi che volevamo parlare d'altro. E allora, visto che la battuta di Berlusconi ha travalicato i confini, cerchiamo di vedere come con un montaggio del meglio di e dei TG internazionali. Io sarò felicissimo di conoscere Papa Cervi, a cui va tutta la mia ammirazione. Papa Cervi purtroppo è morto. E io dai Berlusconi, dai Papa Salesiani Cervi a Milano, da molto tempo. Vedo... Io ebbi a fare anche la corte alla presidente della Finlandia. Bisogna usare tutte le armi che si hanno a disposizione, quindi io, rispolverando tutte le mie arti da playboy, insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini. Continuano a ripeterlo. Sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per concimare i cani. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Allora, questa era la battuta che ha acceso le polemiche, più diciamo l'antologia di quello che abbiamo sentito nel corso degli anni. Sentite ora i TG internazionali come hanno trattato la sortita di Berlusconi su Obama. I told the president that Obama has everything needed in order to reach an agreement with him. He's young, handsome, and even tanned. So I think this will lead to a good cooperation. Una buona collaborazione. Alles, er ist jung, gut aussehend und auch noch braun gebrannt. Perché è giovane, è bello e anche abbronzato. С довольно легким отношением. Я сказал президенту, что Обама имеет все для того, чтобы договориться и следовать. Он молодой, красивый и даже хорошо загорелый. Поэтому я думаю, что с ним можно на самом деле хорошее сотрудничество завязать. Italiano que está en Moscú se ha mostrado convencido de que la elección de Obama contribuirá a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Para explicarlo ha hecho una broma que, según la oposición, daña la imagen de Italia. Allora, vedete che se c'è una cosa e nessuno li può contestare è che ha comunicato, il grande comunicatore ha varcato tutti i confini internazionali e sentite come giustificava la battuta dopo la polemica. Era una carineria assoluta per far capire come tra giovani si potessero bene intendere. Poi ho sentito gli sproloqui che sono stati fatti su questo e ho detto quello che mi è venuto dal cuore: Dio ci salvi dagli imbecilli, che purtroppo ce ne sono troppi in circolazione. Avete sicuramente sentito che l'opposizione ha protestato, si è arrabbiata, eccetera. Bersani per tutti che gli dà del burlesco. Ma abbiamo un Presidente del Consiglio che riesce a mettere in burletta tutto quello che di bello, di grande succede nel mondo. Io credo che meriteremmo di essere rappresentati meglio, francamente. Va bene, e l'altra sub-polemica che riguarda questa questione è la famosa frase di Gasparri. Proprio oggi è arrivato il messaggio di Al-Qaeda che invita l'America a convertirsi salvo minacce atroci. Bene, Gasparri ha detto quella famosa battuta su Al-Qaeda e poi il PD ha risposto con dei manifesti. Sentiamo entrambe le cose e infine la conclusione di Franceschini. Tutti conoscono Berlusconi e sanno l'immediatezza, il modo anche di fare delle battute, quindi sicuramente mi sembra una cosa detta più da vecchio zio che non da una persona ostile. No, sentiamo Gasparri su Al-Qaeda e poi sui PD, manifesti del PD. Con Obama alla Casa Bianca, Al-Qaeda forse è più contenta. E dicevamo che la reazione del PD è stata stampare questa frase con un instant sui manifesti. La cosa ha fatto arrabbiare molto Gasparri perché usciva da Montecitorio, li ha visti e li ha strappati in pubblico. Sono più stupito che preoccupato. Vedere un grande partito, quello di Veltroni, mettere dei manifesti con la mia foto con scritto vergogna, con uno stile a metà strada tra i nazisti e le Brigate Rosse che dicevano colpiscine uno per educarne 100, mi meraviglia. Abbiamo attraversato le polemiche di Berlusconi, quelle sulla frase di Gasparri su Al-Qaeda. Adesso arriviamo all'altra cosa che ci ha divertito molto ieri: la polemica fra la vulcanica Alessandra Mussolini, che avremo proprio fra poco in linea, e il ministro ombra del Partito Democratico, Pina Picerno. Che cosa è successo? Che la Picerno era porta a porta, stava documentandosi in diretta mentre parlava sull'indebolimento delle forze dell'ordine, e la Mussolini si è arrabbiata, ha detto che stava leggendo da dei foglietti delle cose preconfezionate, si è alzata e gli ha strappato i foglietti. Sentite questa gag come è stata divertente. La guerra la si vince con una serie di cose, innanzitutto più strutture e più uomini, perché insomma l'esercito è una misura straordinaria, ma posso noi abbiamo spendere bisogno di potenziare, chiedo scusa, no, la ordinarietà, cioè abbiamo bisogno di un piano strutturale. Vorrei dire che i tagli che ci sono stati anche alla sicurezza sicuramente non aiutano. Onorevole Picerno, se lei viene alla fine della trasmissione a leggere i foglietti sulle ginocchia, noi non possiamo farlo. Onorevole, io non parlo da un'ora, Vespa, lei è pure un momento, io veramente sono imbarazzata perché non è possibile. Non è veramente accettabile. Io capisco che lei non è abituata al confronto civile, onorevole Mussolini, però sono in civile. La prego, però io veramente sono una sono politicamente una bestia, ma non accetto che si venga qui a leggere i foglietti sulle gambe, perché questo ma non è. Cioè, ma non ho capito, ma perché ognuno legge quello che gli pare. Questa era l'avvisaglia, ma la scena è culminata nel gesto fisico con cui la Mussolini si è alzata e ha strappato i foglietti. Sentite che è successo, che casino. E questo anche per effetto in tutta la provincia di Caserta. No. Ma legga bene, Picerno, non è come sta dicendo lei. Onorevole Mussolini, la prego. È veramente la prego, una scusi, allora, il segretario del SUP dice dove sta una denuncia che dalle 7 alle 13 sì. di un giorno c'è una sola volante che deve garantire la sicurezza per tutta la provincia di Catania. No, non è possibile. Non è possibile. Ma su Piceno te l'hanno dettato male, la velina che ti ha fatto qualcuno del partito è sbagliata, appunto. È vero o no, Roberti? Glielo dica la Piceno, c'è i biglietti, ma chi se ne frega dei biglietti della Piceno? Cioè, ci sarà stata qualche incomprensione. I foglietti, visto che non ha solo i foglietti, però piccolo di giornale. Ma la prego, ma lasci i documenti, abbia pazienza. Io articolo di giornale sono documentato. Voglio vedere se lei sa queste cose, lo pensa. Veramente, qui questa è una roba, cioè abbiamo una tragedia. Una tragedia viene con dei soldi che non dicono neanche la verità. Ma vi rendete e fare felici blog e striscia la notizia. Abbiate pazienza, scusate. Povero Bruno Vespa, ha detto fate felice, striscia la notizia e blob, anche un po' noi, devo dire la verità, ma da questo spunto semiserio, oltre a trattare con la Mussolini del caso Picierno, come dice lei, parleremo anche con Rosaria Capacchione di un libro appena uscito, L'oro e la camorra, che se servisse ci ricorda ancora qual è la ramificazione di interessi dei poteri criminali. Allora, il primo ospite che è già in linea, Mario Secchi, il vice direttore di Panorama, buonasera. Buonasera, Terese. Mario Secchi, oltre a essere, come dire, il vice direttore di questo, non so se si può dire ancora il più grande news magazine italiano, è così? Sì, si può dire, il si più può venduto. Dire. È anche un esperto di cose americane, ha un blog che è uno dei pochi blog italiani che parlano più lingua inglese che italiana e si occupa di queste cose, quindi è la persona, diciamo, più adatta per commentare questo tormentone, questa tempesta aperta dalla battuta di Silvio Berlusconi su Obama. Che cosa ha scritto sul suo blog, Secchi? Guarda, non ho ancora cominciato ad affrontare la questione perché mi stavo divertendo a capire esattamente poi il contesto in cui si è svolta. Allora, ho riascoltato la registrazione, tra l'altro sul sito di Radio 24, sempre ben documentato. Facciamo pubblicità alla ditta. No, veramente complimenti, è un grande radio. Dicevo, ho riascoltato la registrazione, allora Berlusconi ha fatto questa battuta. Io quando l'ho vista, l'ho letta, ho detto... non fa ridere. Dopodiché è scoppiato il tormentone. Ho assistito al tormentone, le polemiche, caso internazionale, molto tra virgolette, e poi l'ho riascoltata ancora. C'era la gente che rideva sotto. E probabilmente, aggiungo, ridevano gli stessi colleghi che poi hanno scritto sul caso internazionale. Quindi, primo punto, la battuta ha fatto ridere. Almeno chi era presente. Poi forse ha fatto ridere meno, i giornali, le redazioni al loro interno quando l'hanno esaminata. La cosa che salta subito evidente è che Berlusconi è vittima del politicamente corretto. E un po' anche di se stesso, perché... È anche un attentatore abituale del politicamente corretto. Sì, ma secondo te è una strategia o lui quando gli gira lo fa? No, lui quando gli gira lo fa. Berlusconi non ha una strategia, diciamo, di quelle fatte a tavolino, disegnate, eccetera. La strategia è nel suo stesso personaggio, è così, è un outsider anche nel linguaggio politico, lo è sempre stato e non credo che cambierà mai. E secondo te queste battute pagano o no? Cioè li portano consenso, li portano simpatia? Il suo elettorato lo ama per questo. Ah, quindi non fanno danno? No, al suo elettorato. L'unica cosa che fanno, alimentano, diciamo così, le polemiche dell'opposizione. Questo è evidente, che ovviamente tu alzi una palla e l'opposizione la schiaccia. Ora, la battuta di Berlusconi, ripeto, poteva anche non farla, però bisogna ricondurla a quello che è, diciamo, un po' il clima culturale. Guarda, ti faccio un esempio. Repubblica, quando Obama ha vinto le elezioni, sul proprio sito online titolava «L'America cambia pelle». Ora, io non ci ho trovato granché niente di strano, però se la analizziamo a freddo, non trovi che vi sia un sottofondo un po' fastidioso? «L'America cambia pelle»? Oppure... un altro esempio, dall'altra parte politica, Libero, ha titolato «Strano ma nero». No? Altro titolo che puntava ovviamente sulla questione un po' genetica quasi, no? Certo, però si vorrebbe dire che Berlusconi fa queste battute non da direttore di un quotidiano, ma da Presidente del Consiglio, è vero, questo è il fatto. È vero, questo c'è un fatto istituzionale, diciamo così, che ovviamente rende la battuta diversa. Diversa sempre tra virgolette, però ti faccio un esempio. Da David Letterman, Robin Williams, su Obama e Ted Kennedy, un Kennedy abbronzato. Non si è scatenato un putiferio in America su questo. Perché? Perché è sempre il contesto che poi fa in qualche maniera la notizia. Riascoltando la registrazione, ripeto, il contesto è quello di un uomo, cioè Silvio Berlusconi, che sinceramente voleva dire una carineria sul candidato Obama. Chi fa cronaca politica, e tu sei un ottimo cronista politico, sa com'è Berlusconi. Berlusconi vuol piacere, non dispiacere. Quindi egli è sostanzialmente vittima di un politicamente corretto che chiama i non vedenti, anziché ciechi, no? Li chiama non vedenti, gli afroamericani sono in realtà i neri e così via. È un po' quella che veniva definita in un bellissimo libro, la cultura del piagnisteo. Mm-hmm. Certo. E secondo te come si chiude la questione? Ci sarà un incontro in cui si farà finta di nulla oppure si risolverà magari con una battuta di Obama? Ma si risolverà probabilmente con una battuta di Obama, che è un uomo spiritoso e attento, voglio dire, io su questo non ho il minimo dubbio. Il nuovo presidente degli Stati Uniti è un uomo ed è molto attento alla cultura popolare. Io su questo non ci sono incidenti diplomatici in corso. Noi dobbiamo leggere questa cosa invece molto più in chiave di battaglia politica italiana, e questo è il vero contesto in cui si svolge. Berlusconi, io penso sia sinceramente dispiaciuto e anche arrabbiato, perché fare a lui un'accusa di razzismo, lui che vuol piacere, ripeto, a tutti, è un po' paradossale, insomma. Quindi no? Non fa discriminazione almeno nella piacioneria. No. Questa è una buona battuta, potrebbe costarti il posto, ma facciamo passare così. Grazie mille a Mario Secchi. Abbiamo ancora da liquidare gli altri sommari che ci danno la panoramica di quello che sta accadendo. Sentiamo il TG3. Gli studenti tornano in piazza contro la riforma Gelmini, manifestazioni in tutta Italia, Roma 3 cortei e qualche scontro con la polizia. A Bruxelles il Consiglio europeo in vista del G20 di Washington sulla crisi economica mondiale, 100 giorni per decidere misure globali. Dopo la gaffe su Obama abbronzato, Berlusconi attacca chi lo critica, sono imbecilli, non chiedo scusa, dice, e litiga con un reporter americano. Intollerabile la politica dell'insulto, replica il PD, Di Pietro Berlusconi scredita l'Italia, l'UDC il premier si fa ridere dietro da mezzo mondo. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Barack Obama, telefona ai leader mondiali, fra cui Sarkozy e Angela Merkel, nessuna chiamata per l'Italia. Intervista del TG3 al Nobel per la pace, Marty Atisari, l'elezione di Obama è un cambiamento importante, nessuno rivuole la guerra fredda. Indagine di Banca Italia, con la crisi le aziende tagliano investimenti e assunzioni, difficile l'accesso al credito, le borse oggi tirano il fiato. Chiusa l'inchiesta per le 97 morti al petrolchimico di Mantova tra il 70 e l'89, si procede per omicidio colposo. Vedete, il TG3 ovviamente punta molto su questo, anche sulle reazioni critiche, anche sul fatto che Obama ancora non ha telefonato a Berlusconi, post hoc, propter hoc direbbero i latini. Noi sentiamo che cosa ne pensa il TG di Sky. Crisi dei mercati, Berlusconi chiede all'Europa più serenità e ottimismo. Sarkozy si dice fiducioso e assicura, al G20 l'Europa parlerà con una sola voce. Obama già al lavoro con i consiglieri economici, tra poco la prima conferenza stampa. Bello e abbronzato, per Berlusconi polemiche ridicole, poi litiga con un reporter americano. La frase fa il giro del mondo, mail di scuse dall'Italia sul sito del New York Times. Riforma della scuola, riparte la protesta, scontri a Roma e a Milano. 50 kg di tritolo in mano ai casalesi, gli inquirenti non confermano. Tradito da una liposuzione, latitante dell''ndrangheta fermato in una clinica a Cosenza. Trapianti, il Papa chiede maggiori certezze e condanna il mercato di organi. Serie A, Totti in campo contro il Bologna, il capitano smentisce tensioni con la società. Io trovo fantastica questa notizia del latitante fregato dalla liposuzione. Fosse stata una plastica facciale, almeno rientrava nei problemi del mestiere. Invece la liposuzione. Allora, se Atene piange, Sparta non ride. Abbiamo qui al telefono Marco da Milano, giornalista dell'Espresso, ma anche biografo di Walter Veltroni, il suo libro Il Piccolo Principe, per chiedergli della strana reazione che c'è stata nella sinistra italiana alla vittoria di Obama. Alcuni, segnatamente il leader del PD, l'hanno preso per un viatico. Invece altri hanno detto, no, un attimo, noi siamo un'altra cosa, a partire dalla battuta ai Parisi. Abbiamo avuto ospite ieri, abbiamo vinto in Ohio, ma ci manca l'Abruzzo. Buonasera. Buonasera. Allora, è stato un toccasana, un tonico questa vittoria, oppure per qualche motivo strano che attiene alla capacità autosacrificale della sinistra italiana un ulteriore elemento di polemica? Infatti, qualsiasi cosa succeda diventa occasione di polemica. Per Veltroni, senz'altro, dal suo punto di vista, un toccasana, perché lui è da una vita che segue il sogno americano. Il sogno spezzato di Robert Kennedy è un libro del 1993 che lui scrisse tra l'altro all'inizio dell'era Clinton, fu il primo dirigente ex comunista a partecipare a una convention, quella che appunto nominò Bill Clinton candidato alla presidenza nel 92, ha fatto la prefazione al libro di Barack Obama, insomma lui in qualche modo gli occhi addosso a Barack Obama, bisogna dargli atto che li aveva messi per tempo, mentre altri leader, per esempio D'Alema, puntavano più su Hillary Clinton, la vedevano più simile, una donna più cinica, più smaliziata e per certi versi magari anche più di sinistra, però come D'Alema ama raffigurarsi più socialdemocratica classica, più socialdemocratica, diciamo. Classica, welfare state, assistenza sanitaria, e meno sogno e più bilanci sociali. E allora perché, avendo vinto tra virgolette questa scommessa, adesso Veltroni è contestato? Perché gli altri non gli danno questa vittoria così facile, perché domenica si vota in Trentino e se si perde in Trentino, dove il centrosinistra governa, chi se ne frega dell'Ohio, perché il 30 novembre si vota in Abruzzo e se si perde in Abruzzo dove il centro-sinistra governa, dove il PD va sotto Antonio Di Pietro, è Antonio Di Pietro che rischia di essere l'Obama italiano alla fin fine, cerca, è il contadino di Montenero che è il nero della politica italiana in qualche modo. E soprattutto perché il PD vive in uno stato di sospensione ormai da mesi, in attesa di una resa dei conti che non arriva mai, e perfino la vittoria di Obama diventa un pretesto per gli uni per proclamare un rinnovamento generazionale molto, molto pasticciato, e gli altri per dire no, guarda, tu con Obama non c'entri niente, noi siamo in Italia e in Italia tu devi ancora dimostrare tutto. Cosa deve... Se posso sì, dire una cosa... Se posso dire una cosa, insomma, è il modo con cui Veltroni ha fatto le primarie che lo danneggia, anche in questo caso. Obama ha fatto delle primarie vere, ha sfidato una macchina elettorale formidabile come quella di Hillary Clinton e l'ha stracciata. Veltroni, prima di fare le primarie, ha chiesto il permesso a tutti i capi corrente del suo partito e loro ritengono che quei 3 milioni e mezzo di voti che hanno eletto Veltroni in realtà siano roba loro. E non aspettano altro che riprenderseli. Che cosa deve fare Veltroni per riprendere allora il controllo del PD se continua sempre a essere un po' commissariato in casa? Dovrebbe fare l'Obama, dovrebbe sfidare l'apparato con scelte forti, coraggiose. Ad esempio da Milano? Sicuramente dire fin da ora cosa farà in caso di sconfitta alle elezioni del 2009, dire facciamo un congresso subito, il prossimo segretario sarà eletto con le primarie, fare le primarie per eleggere i capi locali del partito, perché lo stesso Veltroni sta partecipando per esempio nel Lazio a una trattativa senza primarie, cioè le primarie, la competizione, cioè sono qui la ancora sinistra... la carta che Veltroni può giocare contro i capi corrente. Però qui sì, le primarie si fanno quando si è già deciso chi le deve vincere. Appunto, e questo non sta bene, per questo deve fare l'Obama, cioè deve sfidarli a viso aperto e mettere nel conto di perdere, ma peggio di così non si può andare. Da Milano, Veltroni si è ripreso dalla sconfitta o ancora sta subendo lo strascico della batosta delle politiche? Veltroni non si è ancora ripreso dalla sconfitta di Roma. La sconfitta nazionale, che era nel conto, c'è stato comunque un risultato di qualche peso, ma lui non si è mai ripreso dalla sconfitta del Campidoglio, perché quello perché? È lo spregio al suo mito, e sarebbe stato come se Obama avesse perso a Chicago all'inizio della sua campagna elettorale. Cioè alle primarie a Chicago. Alle primarie, esattamente. E spregiato il modello Roma, quello su cui lui ha costruito il mito del piccolo principe, come dicevi tu, da quello lui non è più riuscito a trovare un mito fondativo della sua leadership. Adesso lo cerca in Obama, cioè Obama in fondo è il nuovo Campidoglio, è il nuovo mito su cui Veltroni poggia la sua leadership. Allora, il problema, naturalmente, la cosa non è così facilmente rimpiazzabile. Sentiamo una telefonata, poi ritorniamo da Milano e poi ci fermiamo un secondo. Andrea da Torino, buongiorno. Buonasera anzi. No, volevo dire sulla battuta di ieri di Berlusconi. Secondo me, noi italiani siamo proprio dei furbi. Abbiamo fatto un gran cancan noi. Io l'ho sentita la battuta di Berlusconi. Secondo me è una battuta, riuscita, ma riuscita, non importa. Ma il tono che l'ha fatta è stata la battuta. L'ha fatto scherzosamente. Anzi, secondo me ancora anche un po' invidioso. Perché secondo me c'era un pizzico di gelosia dell'abbronzatura. No, è del giovane, della giovinezza, nel bello, ho capito. E nel fatto che comunque tutti ne hanno parlato bene. Prima cosa che facesse qualcosa non c'è una voce contraria, e lui dice: porca miseria, questo qua ha tutto il mondo a suo favore, io che sono qua in Italia mi danno saccagnate a non finire. E allora ho capito. Dice, le ha proprio tutte, e ha detto anche quella battuta. Come ha detto, saccagnate? No, saccagnate non finire. Ah, non conoscevo questa parola. Aspetti un attimo, però secondo me il Partito Democratico adesso ha preso questa battuta e ha detto, però ha ragione, bello, giovane e abbronzato, dobbiamo trovarlo anche noi, e forse l'hanno trovato. E chi è? Carlo Conti. Carlo Conti for President, non l'avevamo ancora sentita. Ritorniamo da Milano, a questo punto chiediamo anche a lei e anche a lui un commento sulla battuta di Berlusconi. Che cosa resterà di tutto questo polverone di commenti? Resterà che Berlusconi certamente non è razzista, quindi se il Partito Democratico vorrà dire che Berlusconi è razzista, sicuramente fuori strada. Berlusconi è una persona super tollerante, l'ha sempre dimostrato, però una persona vecchia, questo sì, si però può una dire. Persona vecchia, ah. Una persona che appartiene a un'altra epoca, una persona dove chiamare il nero abbronzato una battuta che fa ridere, magari c'è una generazione successiva, generazioni successive dove questa battuta non fa ridere, ma non perché sia volgare, ma semplicemente perché non appartiene più all'esperienza, cioè perché la pelle è normale, più uno abituato. Grazie mille a Marco da Milano. Simpatico Francesco Barbieri da Verona ci dice il termine saccagnate è est dialettale, si usa molto nel Veneto, vuol dire botte, hai preso una bella saccagnata. Ecco, contribuiamo così all'unificazione linguistica della nazione. Buonasera Telese, i suoi potenti mezzi hanno dimenticato la gaffa su Romolo e Remolo. Guardate, sì, è vero, ma abbiamo dovuto fare una sintesi, avessimo messo tutte le battute di Berlusconi o gaff che dir si voglia non bastava tutta la serata, ma i nostri potenti mezzi, colgo l'occasione per ricordarli, sono Mattia che ci sente ora dal treno, Laura che è qui davanti la splendida Gloria che mi fa la segnaletica. Ah, un altro ascoltatore mi chiama continuamente con degli sms grassoccio e mi riempie anche simpaticamente di insulti. Allora volevo dirgli: primo, non sono grassoccio, ormai sono letteralmente obeso; seconda cosa, se vuole chiami in diretta e dice che non ho le palle, non so che cosa, chiami e ci dica lui quello che vuole sentirsi dire. Allora, finita questa precisazione, noi volevamo sentire qualche telefonata e poi evocare, come avevamo promesso, la Mussolini che ha fatto questo raid contro Pina Picerno. Allora, sentiamo Marco da Trento. Pronto? Pronto, sì. Pronto Luca? Eccoci. Allora, come prima cosa volevo farti i complimenti perché secondo me sei un grande... Perché sono diventato obeso, no? No, non per quello, anzi, non capisco perché questo ascoltatore che ti manda i messaggi ti scrive queste cose, perché secondo me la trasmissione con la tua conduzione è molto più vivace, molto più simpatica. E infatti sono contento. Assolutamente no, però va bene. No, sono contento di aver parlato con te, perché penso che sia l'ultima sera, la settimana prossima dovrebbe tornare Cruciani. Ah, ecco, sì, e molti lo chiedono, quando torna Cruciani? Torna lunedì, e allora come sapeva il nostro Marco da Trento. Okay. Bene. No, era niente contro Cruciani, per carità, però la trasmissione con te mi piace di più, insomma. Vabbè, comunque, come seconda cosa volevo parlare di questo, ma come chiamarlo, buffone del Consiglio, perché sinceramente mi rifiuto di poter chiamare Presidente del Consiglio una persona che, oltre a fare solo i propri interessi, dopo ci fa fare tante di quelle figure come se in Italia non ne avessimo già abbastanza da farci ridere dietro da tutta l'Europa, e non esagero, quasi da tutto il mondo, insomma. Anche perché sinceramente lui dice sempre che le sue sono battute, è la gente che interpreta male, si permette di dare dell'imbecille quando il primo imbecille è lui, sinceramente, perché anche... Ma allora lei che non è un simpatizzante, Marco, ci dica, lei avrà fatto un'analisi, perché questo vogliamo sapere anche voi, perché allora Berlusconi vince? Cioè, perché alla fine convince di più? No, voglio saperlo proprio da lei che non lo ha in simpatia. È solo perché ha i media, le televisioni, oppure ha qualcosa, un carisma che seduce questo paese? Sinceramente non lo so, anche perché è già da tanto tempo che mi rifiuto di capire la mente della gente che lo vota, e sinceramente mi rifiuto di capire anche, scusi il termine, tutti gli sfigati della sua coalizione che lo difendono tutte le volte, perché sinceramente lui continua a dire che prima dice una cosa, poi quando vede la malparata generale comincia a dire ma siete voi che avete capito male, oppure era una battuta, eccetera, come quella della polizia che doveva entrare nelle scuole, eccetera. Il giorno prima l'ha affermato e l'ha sentito tutti, anzi gli ha detto faccio un avviso ai naviganti, eccetera. Il giorno dopo, quando ha visto che tutti gli davano addosso per questa cosa, ha detto ma io non ho mai detto una cosa del genere. E quello sinceramente dico, una persona seria nel suo ruolo non si può permettere di fare queste cose, cioè per fare le battute eccetera ci sono i comici, non ci sono i politici o cose del genere. E poi l'unica cosa che non capisco è questo suo dire che non vuole interrogarsi su perché vince, invece se vuole trovare una risposta alle sconfitte della sinistra, penso che con Berlusconi, proprio voi che lo criticate, dovrete fare i conti fino in fondo. Grazie comunque a Marco. Sentiamo, è arrivato un messaggio meraviglioso, solidarizzo con lei, Telese, sono un collega di obesità, forse lo era anche quello dell'andrangheta della liposuzione. Stefano, sei un mago, come ti è venuto in mente? A questo punto solidarizziamo anche con l'andrangheta. Poi l'uscita di Berlusconi è umorismo da ventennio, un uomo ridicolo, l'opposizione però deve imparare a reagire diversamente, Stefano Re. E poi un'altra meravigliosa aggiornamento linguistico: a Roma la zaccagnata è una bella coltellata nel ventre, Enrico da Roma. Quindi in Veneto è una batosta, a Roma una coltellata, adesso arriverà qualcuno a Palermo per dirci che si tratta di un preannuncio di esecuzione. Corrado da Bergamo. Buonasera. Buonasera. Io volevo riportare un'esperienza personale, astraendomi un po' da quella che era la frase di la battuta di Berlusconi. Oh, meno male. Beh, parto da quel punto, però un ricordo che risale almeno una trentina di anni fa. Negli anni 80, anzi proprio nel 1980, io ho avuto il piacere di giocare in una squadra di football americano, e cavandomela un po' con l'inglese, io ero la persona che aveva il contatto con gli stranieri. Gli stranieri erano giocatori americani, ovviamente. E avevamo in squadra di giocatori di colore. Ai tempi ancora non si parlava molto di politically correct, però eravamo tutti attentissimi a non toccare l'argomento nero, negro, di colore, eccetera, perché era veramente tabù. E accorgendosi di questo fatto, i giocatori di colore, mi ricordo che una volta mi disse, uno in quel particolar modo, mi disse, se mi tratti con guanti troppo bianchi mi fai sentire nero. E questa cosa... Oddio, che classe! Sembra la battuta di un film. Ma veramente mi ha fatto veramente riflettere. Allora, si suggerisca come ghostwriter al Presidente del Consiglio, se lui faceva questa battuta per rispondere alle polemiche era già fuori da qualunque sospetto e da qualunque obiezione. Grazie Corrado. Abbiamo la Mussolini in linea, buonasera. Sì, buonasera. Allora, onorevole Mussolini, noi facciamo risentire un pezzo di quello microscopico frammento di quello che è successo ieri a Porta a Porta e poi commentiamo insieme. Ecco, allora dicevo, quindi da un lato ovviamente più strutture e più uomini, perché ci sono stati dei tagli importanti, vorrei ricordare i tagli che erano contenuti nel 112, più di 3 miliardi e mezzo di tagli, quindi tagli significativi, poi capisco l'imbarazzo a dover coprire... Ma se lei Vespa gli toglie i fogli, voglio sapere se riesce a dire le sue cose. Io veramente... Smetta di provocare, la prego. No, non provoco, perché posso noi siamo persone ammonirla? Allora, onorevole Mussolini, Vespa era dalla parte della Picerno ieri. Ma dico niente di che, non è successo niente. E no, che. Perché dopo è si è alzata successo. E gli ha strappato i fogli, come non è successo strappato. Niente? Ha strappato, con garbo gli ho tolto i fogli. E dove li ha messi? Io credo che quando si sta ad una trasmissione deve esporre oralmente un tesi quindi fare affrontare un dibattito, non ti puoi presentare con una cinquantina di fogli, peraltro dove c'erano scritte in esattezza, la più grossa è stata riguardo ad un'unica volante che era presente nella fascia di punta in tutta la provincia di Caserta. Insomma, voglio dire, se tu devi affrontare un dibattito lo fai. Ma se lo fai con i fogli in mano io te li tolgo. Ma non è che lei, che è una consumata professionista dell'intrattenimento, del commento politico e anche dello spettacolo televisivo, ha un po' fatto la ribalda con una giovane che non ha tutta la sua esperienza? E se non ha tutta l'esperienza deve cominciare a fare la gavetta, perché i giovani devono imparare, ma la gavetta deve essere ritornare ad essere santa. Io sono anche un po' stufettissima. Si metta un po' più vicino a una finestra, qualcosa e non la sentiamo benissimo. Dico, io sono stanca delle maestrine che vanno in televisione con i fogli in mano e ci devono dire a noi quello che si fa, quali sono le cifre, quali sono le cose, perché se gli togli il foglio sono muti, non sanno più nulla. Allora facessero la gavetta, si fanno un bel giro, poi tornano e parlano. Ma e se lei voleva essere preparata, voleva dire il dato esatto? Non si portava una cinquantina di fogli sotto al sedere, sulle gambe e sul tavolino. Peraltro dati che non so chi gliel'ha scritti o li ha scaricati da internet, non so da quale sito o chi gliel'ha fatti al PD. Perché se nel PD gli danno l'incarico a come ministro della gioventù, dei giovani, delle politiche giovanili, beh, tu allora devi saper affrontare le questioni, ma non balbettando leggendo i fogli, parlando di cose che perlomeno conosci e che hai visto, no che dici a persone l'antimafia, l'anticrimine che non sanno neanche di che cosa stanno parlando. Insomma, io Napoli la conosco abbastanza. Quindi non è stato un atto di nonnismo contro una giovane deputata? No, io credo che ogni tanto ricordare che la gavetta, come hanno fatto tanti, altri no, hanno bruciato le tappe, ma quelli che hanno degli incarichi di ministro e balbettano di fronte a un foglio, io credo che non sono in grado, dovranno fare esperienza, poi ritornano e parlano senza fogli. Quindi ha rimandato la Picerno? Alla grande, è come uno studente che va a fare una versione di latino con la versione scritta sbagliata dentro al vocabolario. Ma se le avessero fatto a lei, onorevole Mussolini, 10 anni fa? Me ne hanno fatte talmente tante. Io, dato che non ho mai avuto il Padre Nostro vicino che mi ha raccomandato, ho sempre fatto da sola, ho fatto una bella gavetta e gavettoni, ho ricevuto gavettoni e ho fatto la mia gavetta. E quando è stata la cosa più dura che le hanno fatto in televisione? A me le hanno fatte tante, a me mi tolgono sempre la parola. Anche perché lei non la mollerebbe mai, onorevole Mussolini. Ma non me la danno, me la devo prendere. Ho capito, ma chiederà scusa alla Picerno? Ma perché dai, è un confronto politico, che devo chiedere scusa della sua ignoranza? Non ho capito. Ah, quindi non molla. E la prossima volta che la vede, che fa se la rivede coi foglietti? Ma è un problema suo. Non è un fattore umano. Umanamente ci mancherebbe altro. Però se devi far finta di fare il ministro ombra o penombra o non si sa cosa e parli della camorra e dici delle inesattezze catastrofiche a Porta a Porta o in un qualsiasi altra trasmissione, voglio dire... non ti presenti col fascicolo, oppure te lo fai scrivere fatto bene. Grazie mille a Onorevole Mussolini. Grazie, abbiamo capito il suo pensiero. Sentiamo Marco da Latina e poi parliamo seriamente di Caponra con una giornalista del Mattino che ha appena scritto un libro sulla criminalità organizzata in Campania. Marco da Latina. Buonasera. Dunque, il fatto di Berlusconi è, a volte è talmente ridicolo, perché chi conosce, chi ha visto Berlusconi sa perfettamente che persona è. È il classico italiano che ride, che scherza, ma nei momenti opportuni ha dimostrato a tutta Italia di essere una persona serissima. E credo che proprio per questo motivo vince e continuerà a vincere, e a me dispiace che gli altri perdano nella loro tristezza, nel loro grigiore, continuano ad essere sempre lì rammaricati che questo personaggio così particolare e grande comunicatore sa sempre dimostrare poi nella realtà, e non solo con le piccole battute da classico italiano, sa dimostrare di essere una persona validissima. Ecco, mi dispiace il vedere che queste frasi vengono sempre estrapolate dai nostri politici grigi. Bene, abbiamo capito esattamente cosa intende dire, e qui con noi Rosaria Capacchione, sentiamola. Buonasera a tutti. Allora, dopo Gomorra, ma forse purtroppo dopo, nel senso che molti per anni si sono occupati di questi temi senza che raggiungessero le ribalte nazionali, sono usciti tanti libri che parlano di questo tema. C'è anche il suo, il più recente, L'oro e la camorra, che racconta, leggo il suo sottotitolo, come i boss casalesi sono diventati manager ricchi e potenti e da Casal di Principe al centro di Milano influenzano e controllano l'economia di tutta la penisola. Cioè, sì. È una cosa molto forte, che ovviamente chi ha letto Gomorra e chi segue quello che scrivete lei e altri colleghi giornalisti napoletani sa e ha sentito dire, ma si fatica a crederci. Si fa fatica a crederci, ma non è una novità. Sono anni e anni che ci scontriamo con questa realtà. Secondo lei in questo momento la camorra ha eguagliato o addirittura ha sorpassato il business di affari della mafia? No, non lo so, perché poi questi sono anche, diciamo, stime di bilancio che sono approssimative, fatte su dati non certo scientifici, così si immagina, Quindi come si fa poi a valutare esattamente quant'è in milioni di euro il business della mafia? Diciamo che comunque ha condizionato in parte consistente davvero alcuni settori dell'economia nazionale. Senta, mi spiace dire una cosa così personale, ma non è un mistero. Lei vive sotto scorta da quando è stata minacciata di morte in un tribunale durante il processo Spartacus. Sì. Insieme a lei, in buona compagnia, c'erano il giudice Cantone e Roberto Saviano. E perché improvvisamente la camorra, che per lungo tempo sembrava, come dire, non prestar cura alle vostre inchieste, improvvisamente ha fatto questo salto di qualità e ha iniziato a minacciare di morte chi si occupa di lei? Allora, cominciamo a chiarire. Io non avevo la scorta. Saviano già aveva la scorta, il dottor Cantone già aveva la scorta, che vuol dire che una situazione di totale tranquillità non c'era neppure prima. Però c'è stato un periodo in cui voi avete scritto senza che si sentisse... Ma non è vero, non lo sapevate. Ah, non lo sapevamo, certo. Certo. Allora, diciamo che là l'elemento nuovo che è stato fatto in un'aula di tribunale sapendo di avere il massimo dell'audience possibile... Ecco, allora vogliono farlo sapere, mettiamo così. Sì, adesso allora, ci tengono a farlo sapere. Io ho fatto un'ipotesi che quella cosa fosse una sorta di annuncio pubblico di un cambio di strategia, perché ormai il processo aveva preso una strada che avrebbe impedito in futuro la scarcerazione dei capi storici detenuti da molti anni: Bidognetti è detenuto da 15 anni, Schiavone, Sandokan è detenuto da oltre 10 anni. Quindi diciamo che la conclusione di quel processo, perché ormai resta la Cassazione, anche se ci metterà tempo, si allungano i tempi, cioè non è ipotizzabile una scarcerazione, e quindi significa che gli ergastoli, se dovessero diventare definitivi, saranno ergastoli. E quindi a quel punto, diciamo, tutto è perduto. Muoia Sansone, ma tutti finisteri. Tant'è, voglio dire, che poi dopo 40 giorni è iniziata la stagione del terrore. Certo. Stiamo parlando con Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino, del suo libro L'oro e la camorra. Qual è stato, diciamo, oltre a questo salto di qualità militare, qual è stata la cosa che ha più impegnato i casalesi, come emerge dalla sua inchiesta, in questo periodo? Cioè, cosa stanno cercando di fare? Diversificano, concentrano il monopolio, i traffici? Ma sotto il suo profilo economico o quello che stanno facendo in questo momento? In questo momento, qual è la loro strategia? Si sono accesi tutti i riflettori. Io credo che ci sia, come al solito, una doppia strategia, credo. Mi avventuro in un'analisi, ma non è il mio compito fare questo. Credo che tutto questo sangue serva anche a distrarre in qualche modo l'opinione pubblica, gli stessi investigatori, dalla ricerca dei latitanti e quindi dai loro affari, perché inevitabilmente la precedenza è data ai fatti di sangue, è fatta di innocenti che vengono uccisi. Certo. E poi è quello che fa, che ha anche il maggiore impatto pubblico, no? Cioè, le sparatorie in mezzo alla strada con persone per bene, che sono vittime, crea un grossissimo allarme sociale, perché anche questa è praticamente una novità. Fino a maggio di quest'anno io solo in rarissimi casi è successo qualcosa a chi aveva denunciato il racket. Non era mai accaduto, sostanzialmente. Stavamo discutendo con Rosaria Capacchione del suo libro e non solo, L'oro e la camorra. Qual è, Rosaria, l'oro e la camorra? Innanzitutto gli appalti. Però hanno differenziato la fornitura dei materiali per l'edilizia, i noli a freddo, la fornitura di mezzi per il cottimo, anche di qualità, le palificazioni, tutto il movimento terra, che è quasi un monopolio nazionale, voglio dire, tutti i grossi lavori vedono la presenza di 1, 2, 3, 4 ditte, 5 ditte grosse di qui, se non altro nei subappalti, non necessariamente imprese di camorra, ma molte lo sono. Ma cosa ci manca per sconfiggerla, visto ormai la conoscenza del fenomeno, anche grosse, grazie alle vostre inchieste, è molto ampia, molto più ampia di quanto non fosse in passato? Io credo che bisognerebbe accantonare il pregiudizio, chiamiamolo così, che si tratti di un problema campano, meridionale. Perché è un problema nazionale. Aver trovato la fabbrica del burro socia della fabbrica di camorra in Piemonte, avere la scalata all'edilizia, al mercato immobiliare a Milano, zona Navigli, trovare una parte delle imprese dell'Emilia Romagna che vengono a patti, trovare oppure dell'Emilia Romagna che dove sono controllati dalla camorra i locali notturni e alcuni alberghi della Riviera, trovare alberghi della Riviera anche in Versilia, in Umbria ci sono le aziende agricole, voglio dire. Credo che sia il caso di non fare finta di nulla quando arriva qualcuno che compra e paga in contanti, delle cifre considerevoli. È chiaro, sono ovunque in tutta Italia. C'è la camorra, c'è l'andrangheta, c'è la mafia, sono in tutta Italia. Non è detto che, siccome non sparano loro fuori della loro regione di provenienza, non ci sono, ci sono lo stesso. Cioè illegali e criminali in campagna con una facciata rispettabile nel resto della nazione. Non so se sia una facciata rispettabile. Il peculiar non olet ha aperto molte porte in tempi anche non sospetti, quando invece potevano essere fermati. Non è un Grazie. Reato. Un attimo che ti chiedo scusa, abbiamo i titoli del TG1, il nostro format ci obbliga a trasmetterli in diretta. Obama affronta l'emergenza economica con un vertice dello staff ed un incontro stampa, prima però va a scuola dalle figlie. Berlusconi, Obama abbronzato, era solo una battuta, la sinistra non ha nulla da fare, botta risposta con un cronista americano. Polemica maggioranza opposizione, il premier peggiora le cose, dice il PD, è l'unico del G7 cui Obama non ha telefonato. Contro la crisi finanziaria subito decisioni forti operative, dicono i leader europei, Banca Italia aumentano le imprese in difficoltà. Buonasera a tutti voi dal... Allora, era il TG1, mi scuso per questa interruzione. E arrivano dei messaggi, Rosaria. Grazie di averla invitata da voi. Dopo averne tanto sentito parlare, finalmente posso sentire dalla sua viva voce le cose importanti di cui si occupa. Poi anche un messaggio, non so se critico, non so che cosa voleva dire, ma va di moda la camorra quest'anno, la si usa per fare dei soldi. Jacopo da Vicenza. Credo che sia volgare pensare che dei giornalisti che rischiano la vita per scrivere di questi temi, certo, lo usano per fare dei soldi. Paga lo stipendio. Esatto, è una... ci sono rischi ben no, più... No, ma non è questo, voglio dire, mi sembra anche stupido. Ecco, diciamo che questo modo di fare, che poi favorisce la camorra, la mafia, l'andrangheta, tutta la grande criminalità organizzata, perché credo che si tratti di persone che ragionano in questo modo, che poi arriva l'imprenditore in giacca e cravatta dalle regioni del sud con la valigetta in contanti del denaro, compra l'albergo piuttosto che il supermercato, la salumeria o il palazzo e nessuno si interroga. Non è un reato, non è un reato. Però non si può nemmeno fare finta di nulla. Non venirti sospetto che una persona che gira con... C'è la reciproca convenienza, perché significa poi alla fine evadere il fisco, che è un reato più tipico di chi ha i soldi da evadere, diciamo, certo. Così. Però... Sì. Però? Però, voglio dire, poi non bisogna dire sì, però, ma non lo sapevamo, non li conoscevamo, nessuno ce lo ha detto, se sono delinquenti perché non li arrestano i magistrati. Cioè, noi che Marco, con un messaggio ci chiede, ma noi del nord, se non vogliamo sostenere la camorra, dove reperiamo le informazioni sulle aziende, gli hotel e le attività da loro controllati? Banalmente sui giornali, che le hanno sempre pubblicate queste notizie, non solo quelli del sud, ma anche quelli del nord. Benissimo. E le ultimissime proprio azioni della camorra, anche gambizzazione di ragazzi, che cosa rappresenta? Anche una rottura? Ma non è una grossa novità quella. Qui ha fatto rumore perché adesso si porta la camorra. Ma ci sono sempre stati. Ieri sera il mio direttore ricordava che nell'85, quando fu ucciso il mio collega Giancarlo Siani, l'ultimo suo pezzo che scrisse era sui muschilli, bambini di 11-12 anni che spacciavano la droga. Erano loro che facevano gli spacciatori. Io solo in provincia di Caserta avrò scritto di una ventina di casi di ragazzini che sono stati uccisi, chi per sbaglio perché era in macchina con la persona sbagliata, chi perché faceva dei piccoli furti in zona protetta, chi faceva delle rapinette ai cavalli di ritorno, o, insomma, voglio dire, ma reati di poco. Gli stessi due ragazzini che nel film Gomorra vengono uccisi sepolti sotto la sabbia, che è un fatto vero, sono tutti ragazzini, ragazzini che nelle nostre famiglie a quell'età vanno a scuola, fanno altre cose. Certo. Che cosa pensi del libro di Saviano, che a volte è stato anche in ottima fede, per carità, criticato anche da molti nostri colleghi che hanno detto ma non è un lavoro di inchiestistica tradizionale, molte cose erano già note. No, è un'altra cosa. E allora? In fondo anche il giorno della civetta era un'altra cosa. Certo, Sciascia. Sì. Cioè dici la narrativa arriva dove la saggistica non riesce ad arrivare, tocca le corde profonde del paese, vuol dire questo? Voglio dire questo, voglio dire che se non ci fosse la narrativa, voi, se non ci fosse stata Gomorra, se non ci fosse stato Saviano, voi non stareste parlando con me. Probabilmente sì, è vero, purtroppo è così. No, purtroppo, nella logica delle cose, io sono molto laica in queste cose, è così, io sono una grande lettrice, io amo i libri più di ogni altra cosa al mondo, devo ai libri quello che so e come sono cresciuta, devo a certi libri il mio approccio. Ma il successo di Saviano ha agevolato il tuo lavoro o no? O lo ha reso, l'ho complicato? Facciamo due lavori diversi. Finalmente, voglio dire, forse questi temi, come hanno cominciato ad avere una visibilità obbligata nazionale, no? Come se fosse diventato all'improvviso vero. Era vero anche prima. Però, voglio dire, faccio questo mestiere, so quali sono i meccanismi, quindi non mi fa più di tanto. Benissimo, allora ti ringraziamo per questo intervento, i titoli del TG5 e la pubblicità. Crisi finanziaria, vertice europeo per un coordinamento comune. Berlusconi annuncia misure a favore di piccole e medie imprese, nuovo summit dopo il G20 di Washington. Il Premier, anche con la nuova amministrazione USA, abbiamo rapporti cordialissimi. Polemica con un reporter americano. Dall'opposizione dure critiche, la replica, non hanno niente da fare. Polemica anche su un manifesto PD contro Gasparri. Al-Qaeda Obama, subito via dall'Iraq o sarete puniti. Obama incontra i suoi consiglieri economici, ma non andrà al G20. Tra poco la sua prima conferenza stampa. Studenti di nuovo in piazza contro la riforma Gelmini, incidenti a Roma tra i manifestanti che volevano occupare i binari della stazione e le forze dell'ordine. Al TG5 la mamma di Chiara Poggi, offesa per le insinuazioni del legale di Stasi. L'avvocato sostiene che Chiara sapeva delle foto pornografiche di Alberto. Se in famiglia è il marito l'unico a lavorare, i soldi sul conto corrente comune sono suoi. Fa già discutere una sentenza del Tribunale di Milano. Subito la parola a Stefano da Milano. Sì, buonasera. Pronto? Eccola. Buonasera, volevo fare una proposta, una discussione, diciamo, su quello che secondo me è il concetto del giusto punto di partenza nell'analizzare una notizia o un fatto, e questo lo vorrei fare facendo le due esempi. Riguardo alla battuta, alla famosa battuta di Berlusconi, io ritengo che il punto di partenza sbagliato sia quello di considerare un fatto storico, epico, e catalizzare l'attenzione sul fatto del progresso americano che venga eletto un presidente di colore. Quindi, se noi partiamo da questo concetto, ovviamente la battuta di Berlusconi risulterà antipatico, fuori luogo. Ma forse è proprio il punto di partenza che è quello sbagliato. E cioè, non è un passaggio di epoca che sia stato eletto un presidente di colore? È un passaggio di epoca scontato, secondo me, cioè scontato, no, guardi, perché siamo nel 2008. Non sono d'accordo con lei. Se domani avessimo un papa di colore, penso che giustamente la considereremmo una notizia. Già il presidente degli Stati Uniti. Considereremo una notizia perché subiamo l'influenza storica e culturale retrograda, per esempio, del Vaticano. Però io non credo che i milioni di americani che hanno votato Obama hanno detto lo voto oppure no, considerando che è di colore. No, si vota la persona, il carisma, le idee, l'innovazione. Quindi semplicemente continuare a fare tutti questi titoli vergognosi, come per esempio quello dell'America cambia pelle, è quello il punto di partenza sbagliato. E allacciandomi a questo concetto, vorrei commentare anche l'ultimo, dal mio punto di vista, l'ultima notizia sugli scontri avvenuti fra studenti e manifestanti. Anche in questo caso io non credo che il punto di partenza della notizia esatto sia quello di vedere se ci sono stati o meno scontri o manganellate. Il punto di partenza è quello che studenti non vanno in aula, non fanno studiare la gente e vogliono occupare stazioni ed evitare che tanta altra gente che ha bisogno di lavorare possa spostarsi. Va bene, apprezziamo il suo punto di vista, uno sguardo sicuramente diverso sul mondo, sull'epocalità però della svolta di Obama. Immodestamente, come umili cronisti, pensiamo di poter dire che non sia del tutto un'opinione. Sentiamo Marco da Torino. Ciao Luca. Buonasera. Io riflettevo anch'io sulla battuta di Berlusconi. Ma che cosa devo fare? Tutti di quello parlate. E evidentemente... È la cosa a cui tutti pensiamo. La vogliamo risentire un secondo? Risentiamola. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Eccoci qua, dica, scusi se l'ho interrotta. Ma io sono di centrodestra, quindi la trovo una carineria molto simpatica, ma facevo un'altra riflessione. Se io metto Ronald Reagan, si ricorda le battute di Ronald Reagan, La Pesi, McCain, Bush, mi sembra che Berlusconi fa la sua porca figura, ci sta molto molto bene, quindi è all'altezza. Io dal mio punto di vista sono soddisfatto. Se guardo nel centro-sinistra e vedo Barack Obama, Zapatero, Blair, e mi si propone un Veltroni che... microscopico, secondo me il problema è da quella parte di là, mi sono spiegato? Molto chiaro, è anche questo un punto di vista, non lo commentiamo, però vedete, pareri diversissimi da ogni parte d'Italia, da ogni tipo di ascoltatore. Giuseppe da Roma. Buonasera. Di cosa vuoi parlare? Buonasera. Mi sente? Sì. Allora, prego. Una notazione a proposito del Saccagno, perché mentre aspettavo di essere collegato ho fatto una ricerca su internet, anche se l'onorevole Mussolini non ritiene opportuno documentarsi in questo modo. Il Saccagno è un coltello da tasca molto affilato, usato per tagliare le tasche delle giacche dei borseggi. E viene dal provenzale medio sacagno, ed è questa parola si ritrova nell'argot, nel gergo danese, nel tedesco e addirittura nello yiddish. Ma è fantastico! Abbiamo abbattuto le differenze culturali, etnico-culturali, almeno sul piano della lingua. Quindi saccagnata si capisce anche in Svezia, ottimo. Bene, invece cosa voleva dire? Poi per traslato è diventato, insomma, come dire, la coltellata. Che cosa ci voleva dire invece, internet a parte? Sì, che sempre parliamo di internet, sono sul sito del New York Times, dove sono stati postati 1598 commenti all'articolo sulla frase di Berlusconi. E che cosa dicono? Ma moltissimi devo dire che sono italiani, che chiedono scusa, si strano, chiedono perdono, non lo facciamo più. Ma uno divertentissimo dice: liberatevi da Berlusconi, invadete l'Italia. Vabbè, reinvadete l'Italia. E molti altri? Va bene. Per voltare pagina, per entrare nel nuovo millennio, nel tempo di Obama, a grande richiesta, perché anche un ascoltatore ci ha chiesto, beh, ci tirate per i capelli, eccolo, il rap che ha cambiato la storia. Como se dice, como se llama, Obama. Dicevamo, sì, c'è molta invidia da parte nostra, per come si fa a non vincere le elezioni americane con un raggetton, mi dice il nostro regista, ha ragione, un raggetton, chiunque lo capisce, così è una forza enorme, secondo me ci sarebbe bene anche Telese, ma insomma lasciamo perdere, sentiamo Giuseppe da Viterbo. Buonasera. Buonasera. Io ho visto che nessuno degli ascoltatori ha saputo rispondere, o almeno è rimasto molto confuso di fronte a questa domanda di Telese, e allora perché Berlusconi vince? Certo. Come dire, sono rimasto, devo dire, un po' esterrefatto da questa cosa. Ma vede, siccome a me interessano molti punti di vista, io penso che chiunque possa dire qui che Berlusconi ha fatto male, un errore, eccetera, però poi ci deve dire, ma se è così banale, come mai vince? Certo, ma non vedo perché c'entri la politica con i modi. Cioè, mi sembra che il meccanismo del perché vince è del tutto sganciato dai modi, ma lo dice la storia. È dall'antichità che ci sono personaggi che riescono a conquistare il centro della vita politica, da Silla nell'antica Roma, che era un bestione cattivissimo, violento, un bruto, ci sono delle biografie di Silla da morire, lo stesso Cesare che non era lo stinco di santo, e via andare, potrei fare un elenco lunghissimo. Napoleone era un mostro, era un signore, si metteva le dita nel naso, e i nobili dell'epoca, che erano raffinatissimi, avevano tutti il volto a stomaco, e quando hanno sposato la povera Maria Antonietta Napoleone c'è stato il lutto nazionale nella raffinatissima. Quindi lei indirettamente ha paragonato Berlusconi a Napoleone, se ci sta ascoltando sarà sicuramente contento. Però nel male, nel senso che Napoleone era un mostro. Napoleone non era sto grazie, però in quel momento storico Napoleone aveva un senso. Berlusconi è il prodotto della storia, non è il prodotto di se stesso, come poverino lui si illude. Lui è quello che è, basta avere un pochino di senso delle dimensioni e della storia. Non abbiamo ancora capito se il suo è un elogio critico, una raffinatissima apologia negativa. Però l'uno e l'altro penso che sia malposto, Telese, sia malposto. Il problema, Napoleone e Berlusconi sarà lo stesso. Berlusconi si mette le dita nel naso perché lo votano, ma non si votano le dita nel naso. Va bene, grazie. Si votano altre cose, no? Si votano altre cose. Luca, dalla provincia di Milano. Pronto? Sì? Pronto, buonasera, complimenti per la trasmissione. Ma io volevo dare un contributo, se interessa, per quanto riguarda l'argomento, diciamo, della presenza delle società, nella nostra società, anche qui al nord, della criminalità organizzata, che siano mafia, andrangheta o camorra, non importa. E anche per rispondere a quel radioascoltatore che chiedeva, no, con un messaggio. Ma lei è in viva voce? Scusi, io lei è in viva voce? Voce adesso, sì. Riesce a toglierlo? Che c'è il ritorno. Ecco, pronto. Sente meglio? Peggio. Pronto? Sì. Pronto? Ecco, vada. Il discorso è questo. Io ho avuto un'esperienza abbastanza traumatizzante per quanto riguarda la mia forma mentis, la mia cultura, che è sicuramente, diciamo, tra virgolette, del nord, no? Quindi non ero mai entrato in contatto in precedenza con una realtà così, così subdola, come diceva la giornalista prima che è intervenuta. Semplicemente questi signori si presentano veramente in giacca e cravatta, in attività floride. Il caso che io ho constatato di persona era un bar in centro a Milano, un bar diciamo, con un grosso fatturato, un grosso giro di affari, che a detta dei proprietari, che erano miei clienti, hanno ricevuto un'offerta praticamente non irrinunciabile, con un grosso pagamento in contanti. Normalmente i bar vengono pagati con delle cambiali molto lunghe, con scadenze. E poi? Si presenta un signore, ti offrono, ti allettano con una grossa, diciamo, fetta in contanti, e poi questi signori subentrano nella gestione pagando la differenza con una dilazione, con delle cambiali molto elevate come costo, diciamo insostenibili da una normale attività, per quanto ben avviata. Questi signori cosa fanno? Hanno a questo punto uno strumento che è fiscalmente attivo, presente sul mercato da anni e quindi insospettabile. Mettono dentro dei loro lavoranti per far finta, diciamo, di continuare a mantenere, certo, l'attività, e continuano a fatturare anche se la clientela non arriva. A loro interessa lavare dei soldi. Hanno per una cui copertura. Loro battono scontrini praticamente inesistenti, continuano a pagare per un po' queste cambiali. Chi ha venduto è convinto di aver fatto un affare. Di fatto questi qui a un certo punto smettono di pagare le cambiali. Uno è convinto di avere a che fare con delle persone, come dire, tra virgolette normali, inizia a fare una schermaglia legale per cercare di tornare in possesso del locale, perché il locale venduto a cambiali al patto di riservato dominio, per cui nel caso in cui uno non pagasse una, due o tre più cambiali, certo. Torna in possesso del cambiale. A questo punto questi signori, dopo aver lavato, tra virgolette, l'ammontare che a loro interessa, si presentano con metodi molto violenti a questa persona. Uno dei soci è stato malmenato, e chiaramente questa persona, non avendo mai avuto a che fare, e come si chiude la storia? Con questi metodi la storia finisce che si presentano da loro e gli si dice, dai venditori, e dicono: adesso, se vuoi il locale indietro, ovviamente senza nessuna clientela, perché nessuno può, certo, continuare a concluda, frequentare locali del genere, mi restituisci l'anticipo che ti ho dato. Capirai. Punto, e quindi doppio lavaggio. A questo punto uno ho capito, trova. Grazie. Un'altra telefonata, Dario da Milano. Pronto? Non c'è. Giuseppe da Messina, 824-0024 per intervenire. Buonasera. Buonasera. Io vorrei parlare ancora una volta della famosa battuta di Berlusconi. Perché di battuta si tratta? Però purtroppo questa sinistra italiana non riesce a capire che Berlusconi è così, prendere o lasciare, e si attaccano a queste cose per fare politica di bassa macelleria. Così facendo non vinceranno mai, come non hanno mai vinto. Neanche 2 anni fa hanno vinto, era praticamente un pareggio, si sono appropriati del potere. Ora io vorrei ricordare a questi signori che fino a ieri bruciavano le bandiere americane per la strada, oggi sono diventate tutte americane, che gli dicevano a Bush che aveva le mani insanguinate, che era un paese della tortura, che era il paese dell'odio, oggi sono diventati tutti americani, hanno scoperto l'Eden, mi fanno ridere, fanno anche un po' pena. E vorrei dire anche un'altra cosa, che il signor Prodi, in un anno e mezzo di governo orribile per l'Italia, il peggiore governo che l'Italia abbia mai avuto, non è stato mai invitato alla Casa Bianca. Questo è un punto che loro non si ricordano, ma glielo ricordo io. questi purtroppo continuano a fare questo tipo di politica, perché dico, anche io votando per Berlusconi, in Italia ci vorrebbe un cambiamento, ci vorrebbero persone nuove, ma questi da 15 anni fanno sempre le solite cose. Chiarissimo. Allora, andare in piazza non vinceranno mai così. Usciamo dal cortile di casa, forse anche per ritornare a parlare d'Italia, ma dal punto di vista di osservazione di Cristian Rocca. Buonasera. Buonasera. Hai visto che ormai ti abbiamo disegnato una sigletta addosso, il tuo preferito raggetton. Cristian, allora, ma è vera questa cosa che Obama non ha ancora chiamato Berlusconi, eccetto tutti gli altri premier europei, perché è offeso della battuta? Ma non risulta che Obama abbia chiamato Berlusconi, ma non risulta nemmeno che Berlusconi abbia chiamato Obama, nel senso che... No, però risulta che Obama ha chiamato gli altri premier. Sì, ma gli altri, non è che Obama ha chiamato gli altri premier, Obama ha risposto alle telefonate di congratulazioni o ai messaggi di congratulazioni che sono arrivati al suo staff tramite il Dipartimento di Stato per la vittoria elettorale, e quindi poi ha chiamato tutti quelli che avevano... Cioè, quindi potrebbe essere Berlusconi l'offeso? No, no, no, semmai dovrebbe essere Obama offeso se Berlusconi non gli ha mandato le congratulazioni, ma non per la battuta. Guarda, la storia della battuta è che io... non voglio dire non, che io condanno in tutti i modi possibili, perché non si dice, però insomma è un caso soltanto in Italia. Allora, ma un nostro ascoltatore ha detto: ah, ma Reagan era famoso per fare battute ben più trucide. È vero? La politica, anche la politica americana ha avuto i suoi momenti di politicamente scorretto? Beh, Reagan sì, era noto per fare battute, ma un senatore che si chiama George Allen, 2 anni fa, era uno dei candidati addirittura alla possibile nomination del Partito Repubblicano, ha perso le elezioni senatoriali in un seggio della Virginia, dove sembrava sicuro, perché a un certo punto ad una persona di colore l'ha chiamato macaca, che è un modo di dire un po', diciamo, razzista della Virginia, e con cui ci si riferisce ai neri, e per effetto di questa cosa si dice che abbia perso le elezioni. Quindi no, non è così, non ci sono paragoni di questo tipo. Poi figuriamoci, come nel caso dell'elezione del primo presidente nero, no, questo no. Però, dicevo, non è un caso, cioè nessuno qui parla, cioè io ho qui in mano il New York Times e ha la notizia a pagina, non la prima, non la seconda, non la terza, ma la faccio breve, ma a pagina 26, una breve, dove racconta della battuta e più che altro delle polemiche in Italia sulla battuta, e poi dice, c'è anche una cosa un po' su Veltroni, dice Veltroni che viene chiamato l'Obama dell'Italia, peccato che abbia però perso le elezioni. Ma questa l'ha scritta Gasparri. Sentiamo subito un ascoltatore, Jacopo da Lucca. Pronto? Sì? Pronto? Sì. È caduta la linea. Allora, i titoli del TG2, al telefono abbiamo sempre Cristian Rocca. Borse in recupero sulla scia del rialzo di Wall Street. Milano ha chiuso a più 1,26%. A Bruxelles, vertice europeo voluto da Sarkozy, che dice siamo uniti contro la crisi. Berlusconi torna sulla battuta di Obama abbronzato. All'opposizione che lo attacca risponde: non accettano di aver perso le elezioni, ed è scontro sul manifesto anti-Gasparri del PD. È iniziata la prima conferenza stampa del neoeletto Barack Obama, il futuro nuovo presidente già impegnato per trovare soluzioni alla crisi finanziaria, e intanto si rifà viva Al-Qaeda. In esclusiva al TG2 le immagini della rissa di fronte alla discoteca di Casoria, che ha innescato la sparatoria di Secondigliano, in cui sono stati feriti 5 minorenni. Manifestazioni e cortei in tutta Italia contro la riforma dell'istruzione. A Roma scontri tra studenti e polizia. Dal mondo accademico primi consensi al decreto Gelmini. Da Mina a Sammy Davis Jr. per la prima volta tutti insieme i balletti e i duetti che hanno fatto la storia della nostra televisione. Titolo Raffica, una raccolta di video e canzoni di Raffaella Carrà, che per l'occasione incontra i suoi fan. Allora, un ascoltatore mi ha mandato un messaggio che è come una coltellata. Luca, ti ho fatto la sigletta, come si dice nel bel paese, telese. No, no, così soffro troppo, allora sentiamo il raghettone originale. Come si chiama? Obama, come si... Cristian Rocca, in diretta dall'America, pronto? Allora, coniate una rima anche per Rocca, che se la merita sicuramente molto più di me. Allora, dicevamo che un ascoltatore ha risposto alla tua osservazione e diceva: ma se fosse stato il capo del governo inglese o tedesco, la battuta finiva sempre a pagina 26, Rocca? No, probabilmente no, questo, il tuo ascoltatore ha ragione, ma questo è un problema del sistema paese dell'Italia, a prescindere da chi c'è al governo. Cioè, probabilmente se ci fosse stato, l'avesse detta Prodi, sarebbe stata ancora più indietro nelle pagine. Tra l'altro qui in mano anche il Washington Post, ed è soltanto una breve, a pagina 14, dopo una notizia sullo Zimbabwe, una sul Pakistan e un incendio in un ufficio politico in Egitto, quindi è dopo la Nord-Ossetia. Oh, mamma mia, ma siamo veramente una cosa... E che cosa doveva fare per arrivare almeno a pagina 3? Doveva invitare qualcuno a... Doveva fare le corna. Quindi deduco che la battuta di Gasparri su Al-Qaeda non è arrivata nelle prime pagine americane. No, quella è, no, neanche no, quella assolutamente nelle prime pagine no, è stata citata da qualche blog e basta. Così come non vengono citate, diciamo, tutti i giorni le accuse a Bush di avere le mani insanguinate, di torturare gli americani, gli stranieri, eccetera, sono tutte stupidaggini di cui ovviamente non si curano. Allora arriva un altro messaggio: Rocca è un giornalista intelligente, Telese impara. E da questo punto non ti chiamerò più perché muoio di gelosia. Ma senti Cristian, che cosa, cioè, alla fine colpisce un po' questo fatto che siamo veramente così lontani dall'America? Ma sì, colpisce soprattutto me che ci vivo, e questo sì, c'è molto meno teatrino della politica. Berlusconi, mi ricordo che nel 94, quando si candidò per la prima volta, disse: mi candido per contro il teatrino della politica, ma poi c'è cascato lui più di ogni altro. Qui il teatrino della politica non c'è. I giornali non parlano delle battute di Berlusconi, ma non parlano delle battute dei ministri di Bush o dei prossimi ministri di Obama. Cioè, spesso non si sanno neanche i nomi, non dei sottosegretari o dei portaborse, come in Italia vengono intervistati. Però quasi quasi allora è meglio la stampa italiana. Cioè, almeno che non si sappia i nomi dei ministri mi sembra un po' troppo. Forse allora no, è vero, non si sanno i nomi ministri. Paulson, che è il ministro del tesoro, cioè il Tremonti del governo americano, che è un po' più importante rispetto per le sorti dell'economia mondiale, il suo nome l'abbiamo conosciuto, ma parlo anche degli addetti ai lavori quando è scoppiata la crisi finanziaria. E come mai? Ma perché i ministri fanno i ministri, non fanno, cioè si occupano di quello che, ma poi la politica è quella dell'amministrazione, la responsabilità comunque è del presidente, e i giornali giustamente non si occupano, cioè i politici non stanno in televisione o a farsi intervistare tutto il tempo dai giornalisti, perché hanno delle cose da fare, cioè fare delle leggi o guidare un paese, e i giornali si occupano dei fatti, degli argomenti, dei problemi, non dell'intervista al sottosegretario che risponde ad una intervista fatta su un altro giornale. Molto molto chiaro. Sentiamo Jacopo dalla provincia di Lucca. Sì, buonasera. Buonasera Telese, buonasera Rocca, buonasera agli ascoltatori. L'intervento di Rocca credo mi abbia chiarito un po' le cose, perché devo dire la verità, il fatto che ci sia stata questa battuta di Berlusconi piuttosto infelice su Obama, probabilmente infelice, però insomma mi sembrava scherzosa, e il fatto che è passata la notizia che Obama offeso non avrebbe contattato Berlusconi per rispondere alle congratulazioni, che è passata nei media, nei titoli dei telegiornali come una cosa importante, sinceramente mi ha irritato. Io ci sono un po' abboccato, cioè un po' come lei Telese, cioè ho creduto che avrebbe potuto essersi offeso e quindi non ritelefonare a Berlusconi, e mi ha un po' irritato per questa ragione, perché credo che sarebbe bene comunque, anche se la battuta era infelice, a contattarlo, perché l'Italia è un alleato importantissimo negli Stati Uniti, è sempre stato un alleato fedele, e nelle ultime scelte l'Afghanistan e l'Iraq l'ha sempre in qualche modo assecondato e ha pagato un prezzo altissimo per questo, in termini di vita umana e anche di amici, e in termini economici e anche in termini di popolarità dello stesso governo Berlusconi. Quindi molto chiaro. Allora, Ringraziamo per questo intervento, salutiamo Christian Rocca, se ha qualcos'altro da dire su questa telefonata rapidissimamente. No, credo che abbia ragione il tuo ascoltatore, quindi non ho niente da aggiungere. Allora, lo salutiamo, questa è l'ultima giornata di conduzione per il sottoscritto, il sostituto torna a casa e dal lunedì avremo finalmente Cruciani per tutti i suoi fan, ma potrei incombere se non vi comportate bene. Voglio ringraziare la possente squadra che ha sostenuto questo mio immeritevole sforzo, Gloria Guerrera qui da Roma con la sua fantastica segnaletica, chiunque la volesse come una guida può trovare e sul mercato, Laura Marchesi e Mattia Nocchi da Milano, due registi, non uno solo, Valeria Bernardi e Alessandro Chiappini. Buonasera.